ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, traduzione di Sergio Corduas. State attenti a quello che adesso vi dico. Mi comprai una valigia nuova di caucciù e in quella valigia riposi il frac nuovo, quello che mi aveva cucito su misura il sarto di Pardubice sul mio manichino. Andai io stesso a prendere quel frac e il rappresentante della ditta, davvero, non aveva mentito. Mi aveva preso le misure del busto, mi aveva interamente ricoperto di strisce di pergamena, aveva scritto tutto. Dopo aver preso le misure aveva messo tutto in una busta e preso la caparra. E io poi andai a ritirare il frac. E il frac mi cadeva a pennello. A me però non interessava il frac quanto dove fosse quel mio busto rigonfio, il mio torace. E il capo stesso, anche lui, era piccolino come me, come se capisse che volevo arrivare più in alto di dove ero adesso, sempre più in alto, che ci tenevo a stare appeso al soffitto del magazzino della società. E così mi ci portò. Era fantastico. Al soffitto erano appesi busti di generali, comandanti, busti di attori importanti. Addirittura Hans Albers in persona si faceva fare qui il frac. Anche lui pendeva dal soffitto. Dalla finestra aperta soffiava una corrente d'aria e quei busti si muovevano come nuvolette, come le pecorelle in cielo quando soffia il vento d'autunno. Da ogni busto pendeva un filo sottile e su ogni filo c'era la targhetta col nome e l'indirizzo, e a seconda della corrente le targhette ballonzolavano allegramente come pesciolini presi all'amo. Poi il capo mi fece un segno e io lessi il mio indirizzo e tirai giù il mio busto. E davvero, ero piccolino, quasi scoppiai a piangere quando vidi il busto di un general maggiore accanto a me, il busto dell'hotelier Beranek, ma poi scoppiai a ridere e fui felice della compagnia in cui ero finito. Il capo tirò un filo e disse che su quel manichino cuciva dei frac, che era il ministro dell'istruzione, e che ancora più piccolo lì c'era il ministro della difesa. E tutto questo mi dette tanta forza che pagai quel mio frac e ci aggiunsi 200 corone come piccolo omaggio di un piccolo cameriere che lascia l'hotel Praga d'Oro e va all'hotel La Quiete da qualche parte a Strancice, dove mi aveva trovato posto il commesso viaggiatore della terza ditta al mondo, la ditta Van Berkel. E io salutai e poi partii per Praga e con quella valigia poi scesi a Strancice. Era mattina, continuava a piovere. Qui doveva aver piovuto non tutta la notte, ma alcuni giorni, tanta terra e fango c'erano sulla strada dietro le ortiche, e io salivo su per quel fango seguendo la freccia La Quiete Hotel, e dopo aver passato alcune villette con gli alberi spaccati, dovetti ridere perché in uno di quei giardini stavano legando un albero spaccato pieno di albicocche quasi mature. Il proprietario, calvo, stava tirando con un cavo la corona squarciata che due donne tenevano dai due lati. A un tratto soffiò un vento così forte che il cavo si spezzò, e le donne non trattennero quella corona che si squarciò di nuovo e travolse quell'uomo con tutto lo scaletto. Nella trappola dei rami era come sepolto, dalla testa gli scorreva sangue per le spine che lo avevano graffiato, e i rami stringevano quell'uomo a tal punto che giaceva come inchiodato a terra, crocifisso dai robusti rami, e io stavo accanto alla staccionata e quelle donne, quando videro il loro uomo, scoppiarono in un'enorme risata, ridevano a crepapelle mentre quell'uomo roteava gli occhi e gridava «Puttane, troie, aspettate che mi liberi, vi infilo dentro terra come un chiodo!» Probabilmente quelle donne erano le figlie, oppure mogli e figlie. Mi tolsi il cappello e dissi «Mi scusi, signore, vado bene per l'hotel La Quiete?» E lui mi mandò a fare in culo e si contorceva, ma non riusciva ad alzarsi. Era bello quell'uomo imprigionato ricoperto di albicocche mature, e quelle due donne finirono di ridere. Ora sollevavano i rami perché l'uomo potesse alzarsi, ora riuscì a mettersi in ginocchio e poi in piedi. La prima cosa che fece fu di mettersi subito la berretta sulla testa pelata, e io preferii riprendere il cammino. Thank you. Salivo un sentiero stretto. Mi accorsi che la strada era asfaltata, con una banchina in pietra e di granito. Battevo le scarpine per togliere il fango e l'argilla gialla. E poi uscii sulla cima. Scivolavo, caddi una volta in ginocchio e sopra di me sfilavano le nubi. Poi il cielo si fece azzurro come la cicoria spezzata dall'acquazzone lungo la strada. E lì, in cima, vidi l'albergo. Era bello come in una fiaba, come un edificio cinese, come la villa di un gran riccone in Tirolo o da qualche parte in riviera. Era bianco, col tetto rosso di tegole che saliva come a onde. In tutti e tre i piani le imposte erano verdi e con le persiane, e ogni piano era un po' più piccolo, finché l'ultimo era come una bella altanella appoggiata sulla sommità della costruzione, e sopra quell'altanella c'era ancora una torretta fatta di imposte verdi, una specie di osservatorio, come una stazione meteorologica con gli strumenti dentro, e all'esterno le banderuole, sopra le quali girava sul puntale un gallo rosso. E a tutti i piani, ogni finestra aveva il balcone, e a quel balcone conduceva una porta che aveva le persiane, come le finestre, una porta aperta con le persiane. E io camminavo, e non compariva nessuno, né sulla strada, né alle finestre, né a un balcone. C'era silenzio. Nell'aria si sentiva solo il vento profumato, che si poteva mangiare come un gelato, come invisibile neve montata, quasi si poteva mangiarlo con un cucchiaino. Avevo l'impressione che se avessi preso un panino, un pezzo di pane, lo si sarebbe potuto mangiare insieme a quell'aria, quasi come col latte. E ormai ero entrato dal cancello. I viottoli erano cosparsi di sabbia che la pioggia aveva portato giù, l'erba fitta era stata falciata e disposta in covoni. Camminavo fra i pini, dei quali lo sguardo si apriva continuamente su lunghi campi. Il prato era fitto e falciato da poco. E l'ingresso in quell'hotel La Quiete si inarcava in un ponticello, del quale si entrava poi direttamente in una porta di vetro, che aveva ancora una porta con persiane di ferro, una porta distesa su un muro bianco, come una gran parata. E quell'ingresso si inarcava, e ai bordi aveva una ringhiera bianca, sotto la quale stava un giardinetto alpino, e io mi domandavo se ero nel posto giusto e, in generale, pur essendo nell'albergo, se mi avrebbero preso, se il signor Walden aveva davvero preso tutti gli accordi, se io, piccolo cameriere, sarei andato bene al capo, al signor La Quiete. E a un tratto ebbi paura. Non c'era nessuno. Non sentivo nessun suono da nessuna parte, così mi voltai e corsi nel giardino, ma si sentì un fischio penetrante, tanto pressante che mi fermai. E quel fischietto fischiò tre volte, come dicesse tu, tu, tu. E poi un fischio lungo che mi fece voltare, e poi un fischio breve, come se fosse un cavo o una corda che mi avvolgeva e mi tirava indietro fino alla porta di vetro dalla quale ero entrato. E qui quasi mi investì un signore grasso, seduto su una sedia a rotelle, che spingeva i cerchioni con le mani e nella testa grassa teneva infilato un fischietto, e che ora reggeva con le due mani i cerchioni così forte che quella carrozzella si fermò, e siccome si fermò di colpo, il grassone fu sbilanciato in avanti, per poco non cadde, solo gli scivolò via dalla pelata la parrucca nera, un tupè che quel signore grasso si infilò di nuovo sulla nuca. E così mi presentai al signor La Quiete. E lui si presentò a me, e io gli dissi della raccomandazione del signor Walden, di quel rappresentante, esperto e pezzo grosso della ditta Van Berkel, e il signor La Quiete disse che fin dal mattino mi stava aspettando, ma non ci sperava perché c'era stato un nubifragio, e che andassi pure a riposare e poi mi presentassi in frac, e che mi avrebbe detto che cosa richiedeva da me. E io non guardavo, non volevo guardare, ma mi prendeva da solo gli occhi, quel corpo enorme sulla sedia a rotelle, tutto era così grasso come una pubblicità degli pneumatici marca Michelin, e però il signor La Quiete, al quale apparteneva quel corpo, provava una qualche gioia grande, andava avanti e indietro per l'atrio ornato di corna, come se stesse correndo su un prato, tanto ruzzava con quella carrozzella sulla quale sapeva andare così bene, quasi meglio che se camminasse. E il signor La Quiete fischiò col fischietto, però in modo diverso, come se quel fischietto avesse dei registri. e dalle scale corse giù una cameriera col grembiule bianco su un vestito nero, e il signor La Quiete disse: «Wanda, questo è il nostro secondo cameriere, conducilo alla sua camera». E Wanda si voltò e aveva un sedere diviso in due belle metà, e a ogni passo la metà sopra la gamba opposta si inarcava sempre, e aveva i capelli acconciati a fuso di stoppa nera, e io per quella sua pettinatura ero ancora più piccolo, ma mi proposi di mettere da parte i soldi per quella cameriera e di farla mia. Le avrei ricoperto di fiori col suo petto, col suo sedere. Il ricordo dei soldi mi dette la forza che perdevo sempre ogni volta che vedevo una cosa bella, e in particolare una bella donna. Ma lei, quella cameriera, non mi portò ai piani. Uscimmo su una specie di pianerottolo per poi scivolare invece lungo le scale in un cortile, e lì potei vedere. Lì c'era la cucina e i due cappelli bianchi dei cuochi, e sentì il lavorio dei coltelli e risate allegre, e alla finestra si avvicinavano due facce unte e dei grandi occhi. Poi ancora risate che si allontanavano perché io mi affrettavo con la valigia che portavo più alta che potevo per supplire così alla mia figura piccolina, visto che a niente servivano le suole doppie. Forse serviva solo il fatto di tenere la testa così alta ad avere il collo più lungo, e attraversammo il cortile, e lì c'era un piccolo edificio, e io fui deluso. All'hotel Praga d'Oro ero alloggiato come un cliente, ma qui alloggiavo in una cameretta per garzoni. Wanda mi fece vedere l'armadio. Lo aprì. Girò il rubinetto e nel lavandino scorse l'acqua. Tolse la coperta e mi fece vedere che il letto aveva le lenzuola pulite. Poi mi fece un sorriso dall'alto in basso e se ne andò. E di nuovo, mentre camminava nel cortile, vedevo dalla finestra. Non poteva fare un solo passo che non fosse seguito, veduto. Non poteva quella cameriera nemmeno prendersi il piacere di darsi una grattatina da qualche parte, di camminare naturalmente, di ripulirsi le narici con le dita. Doveva camminare sempre come a teatro, come dietro le vetrine di un negozio. You always had a taste for those movies, like Casablanca and Song of My Heart, where a complicated world, for the call of adventure, forces true lovers to part. When the hero turns his back so stoically on all the happiness they might have had, you always considered it so romantic, but I just considered it sad. E io ero seduto e mi tolsi le scarpe infangate e poi i pantaloni, aprì la valigia per appendere il frac e mi venne una certa nostalgia del mio hotel alla Città d'Oro di Praga, dei paradiso. Intorno a me vedevo sempre la città di pietra e folle di gente, piazze piene. Della natura in quei 3 anni vedevo solo quei fiori che andavo a prendere ogni giorno, il piccolo parco e quei petali con i quali alle signorine dei paradiso ricoprivo le pance nude. E così presi il frac, e allora a un tratto mi resi conto. Chi era quel mio capo? In quei 3 anni l'avevo visto dentro una specie di composta. Lui e sua moglie mi apparvero come una specie di brodo. In realtà quel mio capo era ancora più piccolo di me, e anche lui, come me, credeva nei soldi. Con i soldi prendeva belle signorine non solo del paradiso, ma viaggiava. In realtà, scappando alla moglie, correva a cercarle fino a Bratislava, a Brno. Dicevano di lui che ogni volta, prima che la moglie lo trovasse, riusciva a spendere qualche migliaio di corone, che ogni volta, prima di cominciare quella sua bisboccetta, con uno spillo appuntava nel taschino del panciotto i soldi del biglietto di ritorno e la mancia per il conduttore perché lo portasse a casa, e che era così piccolino che di solito il conduttore lo portava in braccio come un bambino, sempre addormentato, tanto se era ancor più ristretto per quella bisboccetta. Per una settimana restava piccolo piccolo come un cavalluccio marino, ma dopo una settimana il gioco gli andava di nuovo bene. Adesso mi rendevo conto che gli piaceva bere vini pesanti. Porto, Algeri, Malaga, ogni cosa la beveva con enorme serietà e straordinaria lentezza, sicché sembrava che quasi non bevesse. Dopo ogni sorsata, in qualche modo imbelliva quel mio capo, teneva il vino in bocca per un po' e poi lo inghiottiva come se stesse ingerendo una mela. E dopo ogni sorso diceva: «C'è dentro il sole del Sahara». Perhaps you're living in America now. Perhaps you're in Timbuktu. Qualche volta anche si ubriacava con i compagni di tavolo, allora poi cadeva e i suoi raggianti amici chiamavano la moglie perché venisse a raccogliere il marito, e lei infatti veniva. Scendeva con l'ascensore dal terzo piano, dopo il capo aveva una suite intera, veniva tranquilla. Non era per lei una cosa da vergognarsi, al contrario. Tutti le facevano sempre inchini, e come il mio capo stava steso sotto il tavolo, oppure seduto su una sedia dormendo al tavolo, la moglie lo prendeva per il colletto della giacca, lo sollevava da terra agilmente, come se fosse solo una giacca, e quando il mio capo stava seduto, allora invece gli dava uno spintone verso terra, ma il capo non cadeva. Lei lo raccoglieva in aria, e come le bastava il braccio, lo portava tranquilla e leggera. Lo trascinava nell'aria quasi davvero fosse solo una giacca, e il capo regolarmente si riprendeva e faceva solo un gesto, così, con la manina, quanto glielo permetteva la giacca tirata, e sua moglie apriva energicamente la porta dell'ascensore, poi il capo, come lei lo teneva, lo buttava dentro. Facevano un boato le sue gambe, ma lei entrava dietro di lui e premeva il bottone. Attraverso la porta di vetro vedevamo come il capo era disteso sul fondo dell'ascensore, e sopra di lui stava in piedi la moglie, e salivano insieme, come al cielo, fino al terzo piano. Due settimane non cesso di meravigliarmi per dove sono capitato e se è mai possibile godersela a quel modo. In due settimane ho già guadagnato alcune migliaia di corone in mance e il mio stipendio, quello poi per me erano gli spiccioli. Ma da due settimane, anche quando sto nella mia cameretta da solo e conto le banconote, io appena sono libero mi conto i soldi, nonostante sia da solo, nonostante questo, ho la sensazione di non essere solo, che c'è sempre qualcuno che mi sta guardando, proprio come la stessa sensazione ce l'ha il maître Zdenek, che è qui già da 2 anni ed è sempre pronto a saltare lo steccato e a comparire nel nostro ristorante a ogni fischio, facendo la strada più breve. Qui, infatti, per tutta la giornata, in realtà, non c'è niente da fare. Quando abbiamo messo in ordine il ristorante, e non ci vuole molto tempo, e quando abbiamo preparato i bicchieri e tutte le posate, abbiamo cambiato e controllato la riserva di tovaglie e tovaglioli, con Zdenek, che ha la chiave della cantina, vado a preparare le bevande, a controllare se ho abbastanza champagne freddo, portiamo il cognac nella saletta perché sia sufficientemente chambré, e poi andiamo in giardino, o meglio nel parco, e lì ci mettiamo il grembiule e col rastrello ripuliamo i viottoli e rifacciamo i mucchi di fieno. Ogni 2 settimane i mucchi vecchi si portano via e al posto loro si porta fieno appena tagliato. Oppure mucchi già pronti di fieno, ormai quasi fatto. Dobbiamo metterli secondo un piano prestabilito nello stesso posto dove stavano i mucchi vecchi. E poi ripuliamo i viottoli, ma di regola lo faccio soltanto io. Zdenek, lui sta sempre nelle villette dei dintorni da qualche orfanella, come dice lui. Ma non saranno orfanelle, penso che saranno suoi amanti. O mogli, che sono qui per le vacanze estive, sole tutta la settimana. O figlie di qualcuno che stanno preparando qualche esame di Stato. E anche se avevo motivo di essere soddisfatto, spesso prendevo ugualmente paura. Magari avevo ripulito un viottolo, avevo messo una sdraio dietro agli alberi, ma appena mi stendevo e appena mi mettevo a fissare il passaggio delle nubi, qui le nubi veleggiavano sempre, insomma, appena mi appisolavo, già si sentiva il fischietto, come se dietro di me ci fosse il nostro capo, e io dovevo correre per la strada più breve, e trottando mi slacciavo il grembiule, saltavo lo steccato, come faceva Zdenek, e dovevo infilarmi dritto nel ristorante e presentarmi al capo, che stava sempre seduto su quella sedia a rotelle, e come sempre qualcosa gli dava fastidio. Una coperta piegata che gli dovevamo aggiustare, gli avevamo dovuto legare intorno alla pancia una cinghia, come ce l'hanno i pompieri, una fascia con una fibbia, come ce l'avevano i due bambini del signor Radimski, il mugnaio. Quei bambini giocavano vicino a una pozza, e su una sporgenza stava sdraiato un San Bernardo, e quando Harry o Vintir, si chiamavano così quei bambini, zampettavano verso la pozza, prima che si potesse pensare che cadessero in acqua, arrivava il San Bernardo e prendeva per quell'anello Harry o Vintir e lo portava lontano da quella pozza pericolosa. Così, proprio allo stesso modo, noi agganciavamo il capo e con una carrucola lo tiravamo su, non fino al soffitto, ma in modo che la carrozzina potesse passargli sotto, e gli facevamo vedere dove poteva stare il problema e gli aggiustavamo la coperta, oppure gliene mettevamo una nuova o una in più. Poi calavamo di nuovo il capo nella carrozzina. Era così ridicolo mentre stava sospeso in aria, era tutto inclinato, sicché il fischietto che gli pendeva obliquo dal collo indicava l'angolo di inclinazione del nostro capo. Poi ricominciava ad aggirarsi per la sala e le camerette e camere, e dopo aver passato tutta la mattinata ad abbellire le stanze, si metteva poi a preparare i tavoli, e di regola erano soltanto due e si apparecchiava al massimo per 12 persone. E anche qui, mentre io e Zdenek mettevamo silenziosamente in tavola ogni tipo di piatti e forchette e coltelli, il capo, pieno di quieto entusiasmo, ornava di fiori il centro della tavola e controllava se nella saletta di servizio avevamo una quantità sufficiente di ramoscelli e fiori di asparagina, freschi e in acqua, con i quali all'ultimo momento adornavamo le tovaglie subito prima che i clienti si sedessero. Così, dopo aver davvero abolito, come diceva, l'ambiente di un ristorante e introdotto nel proprio albergo il fascino di una casa Biedermeier, il capo se ne andava in carrozzella fino alla porta dalla quale sarebbero entrati i nostri clienti, e per un pochino restava davanti alla porta, di spalle alla hall e alle stanze, fronte alla porta. Si concentrava per un po', e dopo aver bruscamente girato la carrozzella ed essersi avvicinato, guardava come se fosse un estraneo, come un cliente che non fosse ancora mai stato lì. Osservava con meraviglia tutta la hall, poi passava di stanza in stanza e guardava da intenditore tutti i dettagli, la disposizione delle tende, dovevamo illuminare tutto. Tutte le lampadine dovevano ardere a sera, dopo che erano finiti i preparativi, e in quel momento il capo era bello. Come se avesse dimenticato di pesare 160 kg e di non poter camminare. Così attraversava i locali con occhi da estraneo. Poi quegli occhi li riponeva e riprendeva i propri. Si fregava le mani e fischiava in modo ancora diverso. E io sapevo già che dopo un attimo sarebbero accorsi due cuochi per informare nei minimi dettagli come erano i gamberi e le ostriche, come erano venuti i ripieni alla Suvaroff e come era il Serpicon. Ma che io finisca il ritratto di quel nostro capo. Quando per esempio in giardino mi appoggiavo a un albero e mi mettevo a contare le banconote, subito si sentiva fischiare, come se il nostro capo fosse un qualche dio onniveggente. E anche con Zdenek, quando nessuno ci poteva vedere, ci sedevamo, sdraiavamo su un mucchio di fieno e subito si sentiva un fischio. Era solo una specie di avvertimento, un singolo fischio, perché continuassimo a lavorare e non pigreggiassimo. Così poi ci mettevamo sempre vicino un rastrello, una zappetta, un forcone e ci sdraiavamo. E appena si sentiva il fischio, ci alzavamo veloci e zappavamo, rastrellavamo, portavamo col forcone il fieno ravviato. E quando c'era di nuovo silenzio e avevamo appena deposto il forcone, si sentiva nuovamente fischiare. Sicché poi, stando distesi, smuovevamo i rastrelli solo così, tanto per farci qualcosa, come se quegli attrezzi fossero attaccati a cordicelli invisibili. E Zdenek mi raccontava che il capo, quando fa freddo, è come un pesciolino nell'acqua, che il peggio è quando arriva al caldo, allora lui quasi si squaglia, non può andare dove vorrebbe, quindi deve sempre stare in una stanza con temperatura bassa, in una specie di ghiacciaia, eppure sa sempre tutto, e vede tutto, anche quel che non può vedere, come se su ogni albero, in ogni angolo, dietro ogni tenda, su ogni ramo avesse uno spione. «È un fatto ereditario», mi disse Zdenek, e si sbraccò sulla sdraio. Il papà aveva avuto un'osteria da qualche parte, faceva anche lui 160 kg e quando arrivava al caldo doveva trasferirsi nella cantina. Aveva lì il letto e versava birra e alcolici per non squagliarsi, altrimenti in quella canicola estiva si sarebbe squagliato come il burro, capisci? E poi ci alzammo e prendemmo a casaccio un viottolo che io non avevo mai fatto. Pensavamo al papà del nostro capo, come in un'osteria di paese per l'estate si trasferiva di buon grado in cantina per non finire come il burro, come versava lì la birra, come dormiva lì, e quel viottolo ci portò in mezzo a tre alberi argentei e io restai lì, impalato, quasi spaventato. Zdenek si spaventò ancora di più e mi prese per una manica e balbettò, «Beh, questo... è davanti a noi c'era una casina piccolina». Una specie di casetta di marzapane, come a teatro era quella casetta. Andammo più vicino e davanti c'era una panchetta piccolina e la finestrella era così piccolina, come quelle dei ripostigli nelle case di campagna, e la porta era a maniglia come nelle cantine. Se avessimo voluto entrare, perfino io avrei dovuto chinarmi, ma la porta era chiusa. E così ci fermammo lì, a guardare dalla finestrella per 5 minuti. E poi ci guardammo l'un l'altro e cominciamo quasi ad aver paura. Mi venne la pelle d'oca alle braccia. In questa casina era tutto, precisamente come in una certa camera del nostro albergo. Lo stesso tavolinetto piccolino, le sedioline, tutto come per bambini. Anche le tende erano le stesse, anche il tavolino per i fiori era lo stesso. Su ogni sediolina stava seduto una bambola o un orso a chiotto. Ai muri c'erano 2 mensole e sopra, come in un negozio, tutti i tipi possibili di giocattoli per bambini, una parete intera piena di giocattoli, tamburelli e corde, tutto accuratamente ordinato, come se qualcuno avesse messo tutto in ordine un attimo prima per noi, per accalappiarci, per farci prendere uno spavento oppure commuovere, un'intera casetta con un centinaio di giocattoli. Ed un tratto si sentì il fischio. Non quello di avvertimento, di lavorare, di non starcene sdraiati, ma il fischio di emergenza, col quale il capo ci convocava. E ci mettemmo a correre e di corsa prendemmo per il prato e per una scorciatoia, e tutti sudati saltammo lo steccato, uno dopo l'altro. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.